Capitolo 8. Ingeborg era esterrefatta. La domanda di suo padre l'aveva colpita come un pugno, facendola rimpiombare nella realtà. La beatitudine prodotta da quel sogno dove tutto andava per il meglio, dove lei era alfine compresa e scopriva che dopo tutto a casa le si offrivano amore, benevolenza e incoraggiamento, si era dissolta in un baleno, assieme alla sensazione di potersi accucciare comodamente nel caloroso grembo della famiglia, fiduciosa che l'avrebbe tenuta stretta e non lasciata cadere sul pavimento. Quel duro colpo l'aveva risvegliata brutalmente, trascinandola via da un breve e delizioso sonno. La sua famiglia non aveva un grembo, bensì una mente totalmente impreparata, e in quella mente lei aveva gettato il nome di Dremel. Judith, fidanzata? Balbettò poco convinta mentre il vescovo le gironzolava attorno, tazza tra le mani, per esaminare la causa del suo prolungato silenzio. La tua incredulità non è molto lusinghiera per tua sorella, affermò, e anche solo la dolce linea delle ciglia di Judith, ricurve color dell'oro brunito, così visibili mentre concentrava la sua attenzione sulla teiera, appagava talmente lo sguardo da far ritenere l'incredulità un'ipotesi quantomeno sciocca. Mrs. Bullivan si astenne da ogni commento e si aggrappò ancora più saldamente al divano. «È così improvviso», disse Ingeborg, incespicando quelle parole. «Possono accadere molte cose in una settimana», disse il vescovo. «Sì», sussurrò Ingeborg, ben sapendo quanto fossero veritiere quelle parole. «È impossibile prevedere che cosa ci può portare il nuovo giorno», disse il vescovo, e Ingeborg, che condivideva pienamente, chinò il capo acquiescente. «Non vi è uomo», cominciò a predicare il vescovo, tanta era l'abitudine, «che conosca l'oro in cui lo sposo», ma si bloccò, ricordandosi che Ingeborg non era fidanzata e che decenza imponeva non si menzionasse in sua presenza il delicato argomento del matrimonio. Le chiese invece nuovamente perché non avesse scritto, e scrutandola con occhio indagatore si chiese se fosse possibile che un membro della sua progenie potesse abbattersi sino al punto di provare invidia. «Io non ho ricevuto la lettera», disse Ingeborg a capochino. «Non l'hai ricevuta? Davvero molto strano. Tua madre ha scritto immediatamente. Fammi pensare. È successo lo scorso venerdì. Era venerdì, Judith, vero?» «Tu dovresti saperlo», disse rivolgendosi a Judith, che obbediente arrossì. «E oggi è giovedì. Vi è stato tempo più che a sufficienza?» «Ah, sì, più che a sufficienza, mia cara», disse girandosi verso la moglie, che subito si produsse in un'espressione di abbandono e di ancora maggiore incapacità. «Pensi sia possibile che la tua lettera non sia stata impostata?» «Credo di sì, Herbert», mormorò Mrs. Bullivant, chiudendo gli occhi e cercando di immaginarsi priva di sensi. «Ah, ecco svelato il mistero, già!» «Wilson diventa ogni giorno più sbadato. La scorsa settimana si sono verificate diverse negligenze. Ti informerai, Ingeborg, e gli riferirai ciò che ho detto?» «Sì, padre. E se persisterà in tale tendenza, tu lo licenzierai?» «Sì, padre.» «Servitore infedele, servitore infedele! Colui che è infedele una volta!» Il vescovo, accigliato, scese un secondo pezzo di pane imburrato e, per forza d'abitudine, si diresse verso il tappeto steso davanti al focolare, soffermandosi in quel punto nonostante fosse una giornata calda e divenendo vagamente ma progressivamente irritato dall'azione esercitata dal fuoco dietro di lui. «Quindi», disse fissando Ingeborg, «non ne sapevi nulla?» Lei fece un gesto di diniego col capo. Era singolare, nel bel mezzo di quella sala dal fasto antico, l'effetto della sua figura in disordine, con l'abito stazzonato per il viaggio, il cappello floscio e il viso pallido per la stanchezza. Di tanto in tanto Judith le lanciava delle occhiate, ma sarebbe stato impossibile intuire che cosa passasse dietro il viso di delicata e burnea rosa della giovane donna affaccendata presso il tavolino da tè. Tanto impossibile che i giovanotti che le ronzavano attorno come api, non appena posavano gli occhi su di lei, rinunziavano immediatamente per volare verso fiori più comunicativi. La locale duchessa, ritenendola una creatura incantevole, del tutto rispettabile per via di quel padre vescovo, nonché in possesso di membra perfettamente proporzionate necessarie a riprodurre con successo futuri duchi, aveva sperato che il suo primogenito la sposasse. Al figlio aveva decantato a lungo la perfezione della ragazza, aggiungendo che avrebbe avuto la più bella moglie di tutta l'Inghilterra. Ma il giovanotto, dopo aver gettato uno sguardo di rimprovero alla madre per aver supposto che egli non avesse considerato da sé la possibilità di accasarsi con una ragazza graziosa come Judith Bullivant, rispose che non aveva nessuna intenzione di sposare un bel ritratto, bensì un essere vivente e possibilmente parlante. Di sicuro non vi è nulla che non vada in lei, rimarcò, e trovo piacevole guardarla. Sarei cieco altrimenti. Ma quant'è noiosa! Non ha mai nulla da dire. Non ho mai conosciuto una donna in cui l'aspetto straordinario si riveli tanto deludente. Non vi è modo di farla aprir bocca. E di fatto non la apre mai, sostenne con aria di lagnanza. Non vi è nulla in lei che nemmeno lontanamente si possa definire stimolante. Chissà, potresti finire per esserne grato, ribatté sua madre. Egli comunque non si lasciò persuadere, agì di testa sua e sposò, come la duchessa aveva temuto, una giovane donna che proveniva dal teatro di varietà, una ragazza che non solo era agile quando avanzava sulle punte, ma anche quando usava la testa, e che presentava quindi benefici da entrambe le estremità, come si premurò di farle osservare suo figlio. Vissero insieme molto felicemente, dato che lei riusciva a divertirlo, cosa non da poco. Non ti ho sentito porgere le tue congratulazioni, Ingeborg, lamentò il vescovo, sempre più dispiaciuto da quello strano comportamento e decisamente infastidito dal suo aspetto gualcito e trascurato. Pensò di nuovo all'invidia, ma quella da sola non arrivava a spiegazzare i vestiti. Eppure tua sorella, disse scostandosi ancora un poco dal fuoco che aveva iniziato a scottare fastidiosamente. È la promessa sposa del rettore. Del rettore? Ripeté Ingeborg stupidamente. Per un attimo la sua mente tormentata pensò che Judith si sarebbe fatta suora. L'unico rettore che esista, precisò il vescovo in tono maestoso. Il rettore della Ananias. Ingeborg era consapevole si trattasse di un evento di grande rilievo. Il rettore della Ananias, il più famoso college di Oxford, era un partito desiderabile sotto ogni punto di vista, eccetto forse che per quello dell'età. Ma era poi così importante l'età in presenza di tutte le altre attrattive. Una volta suo padre l'aveva rabbuffata per averlo definito il vecchio dottor Abbott e l'aveva informata che il rettore aveva solo 60 anni, aggiungendo che tutti avevano 60 anni, o perlomeno tutti coloro che possedevano una minima capacità di discernimento. Non era vedovo, aveva un aspetto piacevole a guardarsi, con il viso ben rasato e i capelli grigio ferro. Era brillantemente erudito ed estremamente facoltoso. Inoltre percepiva un ragguardevole stipendio, uno dei più cospicui assegnati dalla corona. Diversi anni prima, quando Judith era ancora invisibile dentro a un grembiolino, egli era stato loro ospite. Fu allora che Ingeborg l'aveva chiamato vecchio, e in quell'occasione suo padre si era prodigato in grandi attenzioni e nel massimo ossequio. Allora le era sembrato felice di andarsene. Ora, evidentemente, dopo aver fatto ritorno ed essersi perdutamente innamorato di Judith, se una breve visita era riuscita a gettare un ponte tra una remota conoscenza preliminare e un fidanzamento. Chi, comunque, poteva sapere meglio di lei quanto facile potesse risultare colmare certe distanze? Avrebbe desiderato avvicinarsi a Judy, dirle cose gentili, ma pareva che i suoi piedi avessero messo radici nel pavimento. Avrebbe voluto porgere le sue più cordiali congratulazioni a Judith, se solo la sua famiglia si fosse a sua volta comportata in modo gentile e ne avesse offerto un po' anche a lei. Judith, infatti, come la madre, aveva udito le parole che lei aveva pronunciato prima dell'arrivo del padre, e ora il nome Dremel aleggiava nella stanza incombente come una minaccia. Si girò verso la sua famiglia, il padre in attesa che lei mostrasse un po' di decenza e di sentimento. Judith confortata dall'approvazione familiare e con la coscienza non gravata da alcuna azione clandestina. Sua madre sdraiata a occhi chiusi con l'aria assente. Di colpo si sentì intollerabilmente sola. Oh, disse, iniziando a piangere, allargando le braccia. Allora, nessuno mi vuole bene. Quell'esternazione fu accolta ancora peggio del suo mal di denti. I suoi familiari avevano già sopportato molto nei giorni passati, ma perlomeno vi era stata una spiegazione plausibile alle manifestazioni più singolari della sua personalità. Ora invece erano chiamati a osservare lo spettacolo doloroso di un congiunto, il cui comportamento era stato sino ad allora riservato, che si abbandonava al degrado più totale. Ingeborg stava per esplodere in una scenata, e una scenata era un evento mai verificatosi a palazzo, perlomeno durante l'intera gestione Ballivant. Mrs. Ballivant strinse gli occhi con rinnovato vigore e tentò di immaginare di trovarsi altrove. Il viso di Judith, mentre ancora si affaccendava con la teiera, si tinse di rosa. Il vescovo, dopo la prima ondata di violenta emozione, naturale per una persona chiamata a contemplare la nudità ove solo fino a poco prima vi era stata pudicizia, posò la tazza sul tavolo più vicino e con esagerata calma prese a scrutarla. I presenti si sentivano fortemente a disagio come se lei avesse iniziato nel bel mezzo della sala a rimuovere a uno gli abiti che la coprivano e a gettarli lontano da sé. Tutto ciò è molto triste, Ingeborg, affermò il vescovo. Sì, moltissimo, fu la sua inaspettata risposta, pronunciata con gli occhi inondati di lacrime. Si sentiva così stanca, impaurita. Aveva viaggiato ininterrottamente dal mattino precedente. Non aveva mangiato nulla per un periodo di tempo che le sembrava infinito. Eppure era questo il momento, essendosi tradita davanti a sua madre e a Judith, in cui le toccava confessare a suo padre gli atti commessi. Trovo che questo sia l'esempio più doloroso di cui sia stato testimone, disse il vescovo riguardo al più abietto dei peccati, l'invidia. L'invidia, disse Ingeborg. Oh no, non è invidia. Se si trattasse solo di questo. Scusami, Judy, tante congratulazioni, mia cara, ma padre, il punto è che l'ho fatto anch'io. Ora, che aveva sputato il rospo, gli lanciò uno sguardo miserevole, pronta al peggio. Ho fatto che cosa, Ingeborg? Mi sono fidanzata anch'io! Fidanzata? Ma mia cara Ingeborg! Il vescovo iniziava a preoccuparsi per la salute mentale della figlia, il cui comportamento era davvero strano. Che il dentista le avesse somministrato una dose eccessiva di anestetico. Il suo tono divenne freddo e sarcastico. E come saresti riuscita, le chiese tranquillamente, a fidanzarti in questi pochi giorni? Molte cose possono succedere in una settimana. Disse Ingeborg. Le era sfuggito di bocca. Si era sforzata di non dirlo, ma era snervata. Sempre, quando era snervata, tendeva a dire la prima cosa che le saltava in mente, il che non aveva mai mancato di produrre effetti disgraziati o devastanti. Il vescovo innalzò attorno a sé un muro di ghiaccio. Evidentemente non si trattava di un attacco isterico, ma di qualcosa di infinitamente peggiore. Forse potresti essere così gentile da spiegarti, le disse in tono duro, mentre sembrava generare folate di aria gelida che andavano poi a disperdersi per tutta la stanza. Mi sono fidanzata con un certo Dremel, disse Ingeborg. Non conosco quel nome. E tu, Marion? No, oh no, sospirò Mrs. Ballivant con gli occhi serrati. Robert Dremel. Disse Ingeborg. E chi sarebbero questi Dremel, Ingeborg? Non vi sono dei Dremel? Come sarebbe a dire che non vi sono Dremel? Io non ne ho mai sentiti nominare, rispose Ingeborg, tormentandosi le dita. Non ci è mai successo di parlare di cose quali altri Dremel. E che cosa fa quest'uomo? È un pastore. Oh! E dove abita? Nella Prussia orientale. Dove, Ingeborg? Prussia orientale, è un luogo all'estero. Grazie, ne sono consapevole. La mia istruzione spazia fino a comprendere la Prussia orientale. Mrs. Ballivant iniziò a piangere, non rumorosamente, ma con lacrime che sgorgavano da sotto le palpebre chiuse e solcavano piano il viso. Non faceva nulla per asciugarle, se ne stava così, supina, con le mani serrate sul petto, lasciandole fluire liberamente. Qual era l'utilità di comportarsi da buona cristiana se poi si doveva sottostare a certe scenate? E perché di grazia se ne sta nella Prussia orientale? Chiese il vescovo. Lui è di quelle parti. Di nuovo per un attimo la stanza stessa parve trattenere il respiro. Devo Quindi dedurre che si tratta di un tedesco. Sì, padre, un pastore della Chiesa luterana tedesca. Sì, padre. E di in qualche modo collegabile al Kaiser nell'esercizio delle sue funzioni ecclesiali? No, padre. Si produsse una pausa. Tua zia che cosa ha detto di tutto questo? Non ha detto nulla, lei non era con me. Come hai detto, prego? Non sono stata da mia zia. Judith, mia cara, ti spiacerebbe lasciare la stanza? Judith si alzò e uscì. Mentre attraversava la stanza in direzione della porta e fino a che non l'ebbe chiusa del tutto, regnò il silenzio. Ora, disse il vescovo, dato che Judith era al sicuro, lontana dai pericoli che l'ascolto avrebbe potuto comportare. Potresti essere così gentile da spiegarmi esattamente come sono andate le cose? Credo che sia meglio che me ne vada a letto, mormorò Mrs. Bullivant senza alterare la sua postura o aprire gli occhi. E che qualcuno chiami Richards affinché venga a prendermi e accompagni in camera, per favore. Né il vescovo né Ingeborg le prestarono la minima attenzione. Non avevo intenzione di fare nulla di male, padre, esordì Ingeborg. Poi continuò bruscamente dicendo: Posso spiegarmi meglio se mi siedo. E si lasciò quasi cadere nella poltrona più vicina, dato che le ginocchia non parevano più rispondere ai comandi. Suo padre le appariva oltre una cortina di nebbia. Per la prima volta in vita sua avrebbe dovuto scontrarsi con lui, ma per temperamento Ingeborg preferiva arrendersi anziché opporsi. Nella più nera desolazione un dubbio le attraversò la mente, e cioè se Herr Tremmel valesse davvero tutta quella pena. Se addirittura al mondo esistesse davvero qualcosa, una qualsiasi cosa per cui valesse la pena combattere. E contro il proprio padre, poi, disconoscendo tutto ciò che le era stato insegnato. Non sarebbe stata abbastanza forte. Si trattava davvero di uno di quei motivi del contendere per cui bisognava a tutti i costi superare se stessi. La vera forza non si sarebbe forse dimostrata riprendendo con imperturbabilità le fila della solita vita a casa? Se ci pensava bene, che cosa poteva mai importarle della Prussia orientale, di quelle distese di campi di segale, di tutta quell'acqua? Desiderò aver mangiato almeno una fetta di pane imburrato. Pensò che un po' di pane e burro, se non altro, avrebbero potuto aiutarla a sconfiggere i dubbi. Si guardò attorno nella stanza, così da non dover sostenere nemmeno per un attimo il risoluto cipiglio del padre. Lo sguardo le cadde sul tavolo. Credo che prenderò del tè. Il vescovo trovò quell'uscita oltraggiosa. La fissò in preda a un sentimento di gelida indignazione, come mai gli era capitato di provare. Sua figlia, la figlia per cui si era così tanto prodigato. La figlia che aveva addestrato per anni, non risparmiandosi alcuna fatica finché diventasse un'efficiente e utile donna cristiana. La figlia che aveva onorato con la sua fiducia, con la quale aveva condiviso i momenti più privati della sua giornata lavorativa. Non vi era stata lettera a lui indirizzata che non le avesse consentito di leggere, o cui non le avesse concesso di rispondere in sua vece. Non aveva mai compiuto un solo passo in qualunque direzione senza permetterle di occuparsi dei preparativi necessari. Raramente, pensò con amarezza, un figlio aveva ricevuto in modo così totale le confidenze di un padre. Sua figlia, quella figura stazzonata e disonorevole, sì, ora conosceva le ragioni di quell'aspetto. Si versava del tè con cinismo, mentre lui, il padre ingannato, veniva lasciato in attesa di una spiegazione fino al momento in cui la ragazza non si fosse saziata. Ingeborg era riuscita, si disse, incredibilmente arrabbiato per essersi lasciato coinvolgere in quella situazione, a metterlo in uno stato d'animo assolutamente non consono a un vescovo, cosa che non gli accadeva dai tempi della giovinezza. È da Parigi che non mangio nulla, spiegò Ingeborg in tono di scusa, tenendo la teiera con entrambe le mani, non riuscendo con una sola a controllare il tremito che la scuoteva, consapevole a sua volta che il momento non era il più adatto alla mescita del tè. Il vescovo ebbe un sussulto. Da dove? Parigi, disse Ingeborg e aggiunse timidamente, avendo ormai preso il controllo dei propri nervi e desiderando solo riempire quel silenzio. È un posto all'estero. Mrs. Bullivant mormorò in modo più pressante la richiesta di procedere a suonare affinché Richard venisse per condurla a letto. Ingeborg, disse il vescovo con una voce che le era sconosciuta. Parigi? Sì, padre, la scorsa notte. Ingeborg, vieni qui. Le indicò una poltroncina a un paio di metri dalla sua postazione, sul tappeto di fronte al caminetto. Aveva una voce irriconoscibile. Ingeborg posò la tazza con mano tremante e obbedì il cuore in gola. Che cosa hai fatto? Le chiese. Ve l'ho detto, padre. Mi sono fidanzata con Er. Come sei arrivata a Parigi? In treno! Mi vuoi rispondere? Che cosa avete fatto a Parigi? Siamo stati a cena. Era terrorizzata. Suo padre l'interrogava a voce alta. Mai in tutta la sua vita l'aveva visto così alterato. Rispose con prontezza a tutte le sue domande, con il cuore che saltava i battiti man mano che queste venivano poste in rapida sequenza, anche se le risposte sembravano sortire l'unico effetto di irritarlo sempre più. Se solo avesse permesso che si spiegasse, se solo avesse ascoltato le sue ragioni. Ma lui la subissava di domande e non le concedeva tempo sufficiente a rispondere. Padre, disse tutto a un tratto, vedendo che dopo l'ultima risposta data lui si era astenuto per un attimo dal parlare e se ne stava immobile, fissandola in quel modo strano. Per favore, lasciate che vi spieghi come sono andate le cose. Impiegherò meno di un minuto, davvero. Così almeno saprete. Non intendevo far nulla di male, non ne avevo nessuna intenzione. Ma il dentista, rapidissimo, mi ha estratto il dente il giorno stesso in cui sono arrivata e così, invece di venire a casa, sono partita per Lucerna. Per? Sì, disse annuendo, colta da una frenetica impazienza di raccontare ogni cosa. Per Lucerna! Non so dirvi il perché, ma l'ho fatto. Sembrava che una forza mi ci trascinasse e dopo un po' mi sono ritrovata fidanzata. Anche di quello non ne avevo alcuna intenzione, ve lo giuro, ma in qualche modo sarebbe stato di qualche utilità aggiungere il racconto della torta bianca e argento, delle sette testimoni e dell'inflessibile gentilezza di Herr Dremmel, nonché di tutti gli altri piccoli infiniti anelli della catena? Sarebbe mai stato in grado di capire? In qualche modo è accaduto. Vedete, continuò in tono impotente, sollevando gli occhi in alto verso di lui, occhi che contenevano una preghiera di comprensione e di clemenza. Da cosa nasce cosa? E dato che ancora lui non diceva nulla, con accresciuta impotenza Ingeborg aggiunse: Herr Dremmel era seduto in treno di fronte a me. L'hai conosciuto per caso, sul treno, come una sguattera qualsiasi. Lui era uno della comitiva. Partecipava fin dall'inizio. Oh già, mi sono dimenticata di dirvelo. Si trattava di un viaggio organizzato. Un viaggio organizzato. Sì, e c'era anche lui. E naturalmente, per visitare i luoghi, giravamo in gruppo, in fila per due, un po' come si fa con le classi, forse per via dei marciapiedi stretti, proseguì, ora buttando fuori per il terrore qualsiasi cosa le si affacciasse alla mente. E lui era l'altra parte della mia coppia. La metà coppia di cui ero l'altra parte. E sapete, padre, noi ci siamo fidanzati. Mi prendi per uno sciocco? Fu il commento del vescovo. Il cuore di Ingeborg cessò di battere. Come poteva suo padre anche solo pensare? Oh, padre! Fu tutto ciò che le riuscì di dire. E chinò il capo sopraffatta dall'impotenza, sapendo quanto sarebbe stato inutile qualsiasi tentativo di spiegazione. Era consapevole di aver reso tutto molto ridicolo, uscendosene con una confusione che doveva suonare alle orecchie del padre come una serie di assurde scempiaggini. Ma lui come poteva non vedere che era impietrita dal panico? Non poteva avere un po' di pazienza e aiutare a liberarsi di quel fardello? Mi sento una stupida, disse guardandola attraverso un velo di lacrime e cadendo all'improvviso in preda a una sorta di nudità di esposizione basata sulla più disarmante spontaneità e sincerità. Ho troppa paura. Stai forse suggerendo che sono io la causa di tanto terrore? Chiese il vescovo in tono irritato. Sì, rispose Ingeborg. Questo era spaventoso, e lo era in modo particolare perché faceva davvero desiderare al vescovo di non essere un gentiluomo. Allora sì che sarebbe stata una faccenda da nulla, trattare con quella piccola provocatrice seduta di fronte a lui. Sì, quando si trattava di donne, il metodo più efficace era ricorrere alla pura forza. Rabbrividì, ritraendo prontamente i propri pensieri dal ciglio dell'abisso. A quali orrende profondità di istinti primordiali lo stava trascinando la condotta della figlia? Padre, disse Ingeborg, che ormai sentiva di aver toccato il fondo, luogo in cui la lingua di chi lo raggiunge cade in preda a una terribile sincerità. Vedete queste? Guardate! E sollevando le mani, le mostrò al padre, osservandole lei stessa come se appartenessero al corpo di qualcun altro, tanto erano scosse da un tremito incontrollabile. Non lo chiamereste forse avere paura? Guardatele! È paura! Paura di voi! Siete voi che le fate tremare in questo modo! E pensate che ho 22 anni! Sono una donna ormai! Quanto mi vergogno! Ma al vescovo, quel pomeriggio non fu dato di scoprire se si trattasse di una semplice opportuna vergogna per ciò che aveva commesso oppure di una vergogna vera, profonda, originata dal pentimento per i propri peccati. Poiché dopo essersi spinta fino a pronunciare quelle parole, fu interrotto dalla perdita dei sensi. Vi fu un attimo di confusione mentre Ingeborg cadeva dalla sedia accasciandosi sul pavimento come un oggetto strano accartocciato e Mrs. Bullivan produceva un'esclamazione. Per il vescovo, quel fatto, dopo aver udito per anni le labbra della moglie emettere solamente fievoli mormorii, fu così sconcertante che, se abbandonato nel ritegno, la donna gli avesse scodellato un nuovo erede lì, direttamente nel salone. Ritrovando rapidamente la propria presenza di spirito, suonò il campanello per richiamare Richards. Quando questi arrivò e si inginocchiò per aprire la blusa da viaggio di Ingeborg, qualcosa attaccato a una lunga catena ne uscì tintinnando. Si trattava della croce del padre e dell'anello di Herr Dremmel, che urtandosi produssero un rumore metallico. Il vescovo lasciò la stanza senza una parola. Capitolo 9. Un drappo funebre discese sul palazzo e l'avvolse nell'oscurità per 4 terribili giorni, durante i quali Mrs. Bullivant, le figlie, il cappellano, la segretaria e tutta la servitù, anziché vivere normalmente, presero a muoversi guardinghi, preoccupati unicamente di sottrarsi alla vista del vescovo, di rimanere invisibili. Quel drappo era intessuto dell'ira del vescovo ed era talmente ampio che rifluì fin dentro la dimora del decano, lambì la sala del capitolo, offuscando quei luoghi immacolati e giungendo persino alla fino ad allora tranquilla residenza del sindaco, che ebbe la mala sorte di avere un appuntamento con il vescovo il giorno successivo al rientro di Ingeborg. Un rivoletto di collera, esiguo, ma sufficiente a stroncare un uomo anziano, riuscì a farsi strada fin dentro la cattedrale dove annientò il capo sagrestano, un ridente ottuagenario che godeva del privilegio di scherzare con il vescovo e che, offrendo il solito ameno tentativo, immediatamente ridotto al silenzio da un bavaglio di tenebra e privato per sempre di tale prerogativa. E il fatto che il vescovo permettesse ai suoi risentimenti personali di fluire liberamente oltre le pareti del giardino, lui, che in pubblico era da sempre un campione delle qualità imprescindibili in ogni vescovo che si rispetti, vale a dire un aspetto irreprensibile, nobile calma ed eloquenza dal sapore biblico, mostrò quanto gravemente la sua mente fosse turbata. Il vero problema, però, non era tanto che lui lo mostrasse, quanto che non riuscisse a far diversamente. Per colpa della figlia, aveva perso il suo autocontrollo e tanto bastava, senza contare tutto il resto, per temere che non sarebbe mai stato in grado di perdonarla. E non solo il proprio autocontrollo, ma anche la stima di sé. Durante quei primi 4 giorni oscuri provò una sorta di cupo dolore fisico, divenne chiaramente consapevole di come l'essere primordiale che era in lui avesse preso il sopravvento, una creatura di cui aveva dimenticato l'esistenza e che ora lo incitava di continuo ad afferrare sua figlia per le spalle e a scuoterla forte fino a farle intendere ragione. Che cosa terribile per un vescovo. Adesso le sue mani frementi, per il desiderio di afferrare, scuotere un essere umano, mani che Ne era dolorosamente conscio, non avrebbe mai dovuto usare altro che per invocare la grazia divina. Mani consacrate, mani investite da Dio a benedire, a congedare in pace. Lo riempivano di raccapriccio. Quella piccola, insignificante entità, quell'essere debole a cui aveva attribuito lo splendido dono della vita e con esso l'opportunità che senza di lui non avrebbe mai avuto di potersi beare della grazia eterna. Quella creatura che aveva nutrito e vestito, che aveva preso il cibo dalle sue mani, quell'esempio di felice mansuetudine, era diventato sinonimo di disgrazia. Disgrazia al di fuori della sua casa, davanti agli occhi di tutto il mondo, ma anche all'interno, dinanzi al suo spirito degradato, umiliato. E non aveva portato disgrazia solo a un padre esemplare, ma anche al più brillante esponente del seggio dei vescovi presso la Camera dei Lord. Nonché al più stimato, al più spesso citato, come gli aveva auspicato con una sorta di eccessa umiltà, com'era possibile esprimere quel concetto con sufficiente reverenza nel sacro spettegolare degli angeli? Quando il suo morale era particolarmente alto, con umiltà aveva osato sperare che riguardo al suo operato in paradiso non regnasse il silenzio. Ed ecco che ora, nel momento di massima riconoscenza e di legittimo orgoglio, per quell'altra figlia che si era fidanzata in modo così splendido, arrivava questa e con indiavolata profanazione lo trascinava, trascinava lui, il suo stesso padre, nella polvere dell'abiezione e degli istinti furiosi, la polvere spaventevole in cui regna l'uomo bestia, quella deplorevole figura i cui istinti e le cui azioni al servizio di tali istinti lo spingono a dominare le donne della sua razza. Non riusciva a risolversi di parlarle e non le permetteva di avvicinarsi. Per quanto sincero fosse il suo pentimento, non avrebbe mai potuto cancellare dalla memoria quell'ero in cui era stato costretto a riconoscere, dopo i numerosi anni di accorta ascesa verso la virtù, che nelle più intime profondità della sua anima sopravvivevano ancora le vestigie di lati oscuri che credeva sconfitti da tempo. Terribile essere trascinato non solo verso un comportamento poco cristiano, ma addirittura verso la brutalità. Terribile desiderare non solo di non essere cristiano, ma neppure gentiluomo. Lui, un principe della Chiesa, era arrivato a desiderare di essere uno scaricatore di porto con licenza di esprimersi liberamente. Lui, un principe della Chiesa, era lacerato e distorto da sentimenti che avrebbero portato disgrazia a un semplice curato. No. Non avrebbe mai potuto perdonarla.